passo dal campo dentro di me che non cambio mai. Ma tu, ali d'argento, resta un momento, poi vola via. Cambio mai, ma tu.